America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Republicans retreating in defeat today, calling off an expected vote to repeal Obamacare. The president let down again, and it's another embarrassing defeat for Majority Leader Mitch McConnell. Ecco, avete sentito il newscast, nuova sconfitta su Obamacare per l'amministrazione Trump. Insomma, io non riesco a capire come mai i repubblicani, Trump, il senatore Mitch McConnell, continuino a cercare di trovare un consenso su una riforma che inevitabilmente non passa, non può passare, perché nel momento in cui tu concedi ai tuoi cittadini qualche beneficio, poi è molto difficile levarlo. E dunque alla conta finale non c'erano i numeri e dunque per l'ennesima volta, e credo che questa volta sia davvero per sempre, la proposta di abolire Obamacare per sostituirlo con qualcos'altro sarà ritirata. Adesso si parla, guardando in avanti, di riforma fiscale. Lindsey Graham, uno dei punti di riferimento centrali per il progetto di riforma, ha confermato che su questo si lavorerà, e sappiamo che questi erano gli obiettivi principali di Donald Trump, perché dovrebbe aiutare questo suo progetto la crescita economica, dovrebbe aiutare la formazione di nuovi posti di lavoro. Ecco, naturalmente parlando di economia, la riforma fiscale aiuta, un occhio sulla politica monetaria è importante, però come sappiamo l'America puntava molto sull'Europa, su una crescita europea che potesse fare un pochino da traino anche per la sua economia. E dunque oggi si riflette molto in America su quello che è successo in Germania, in questo caso soprattutto dal punto di vista economico. Sentiamo. German Chancellor Angela Merkel will remain in office. Far right wing party, the anti-migrant alternative for Germany, was expected to win a significant number of seats in the nation's parliament. Ecco, avete sentito, questa è la ABC che fa un servizio sulle difficoltà della Merkel nel suo tentativo di formare una coalizione di governo. Il Washington Post ha fatto un titolo in prima pagina in cui scrive come titolo: beh, la caduta elettorale della Merkel in Germania avrà importanti implicazioni per l'Europa, quindi l'America è preoccupata. Io ho con me i microfoni di America 24 proprio per parlare di queste tematiche economiche più che del rapporto Merkel-Trump, ma parleremo anche di quello. Ecco, con me i microfoni di America 24 Veronica De Romanis, appena pubblicato un libro molto interessante e provocatorio, aggiungo, perché su alcune cose io non mi trovo d'accordo e Veronica questo lo sa, provocatorio perché dice che l'austerità fa crescere, questo è il titolo del libro. Ma Veronica De Romanis, grande esperta della Germania, ha scritto due libri proprio sulla Merkel, l'ha intervistata, e dunque parto con il tema principale. È vero che la Merkel in questo suo ultimo mandato difficilmente riuscirà a fare per l'Europa quelli che tutti speravano, o no? Beh, questo dipenderà moltissimo da che tipo di governo uscirà fuori da queste elezioni. Se ci fosse stata una terza grande coalizione con i socialdemocratici, ci sarebbe stato appunto un mandato europeo. Se invece ci sarà, come sembra più probabile, una coalizione con i liberali e probabilmente con i verdi, perché sennò non ha i numeri la cancelliera Merkel per governare, ecco, i liberali sono un partito più complicato perché per quanto riguarda l'Europa e i passi in avanti nella governance europea hanno delle posizioni molto più rigide, hanno le posizioni per esempio del basta con i salvataggi degli spendaccioni dei paesi del sud, basta con i soldi alla Grecia, basta utilizzare i soldi dei contribuenti tedeschi. Ecco, da questo punto di vista i passi in avanti che per esempio ha proposto lo stesso presidente francese da implementare con il famoso asse franco-tedesco potrebbero essere più complicati, però non è detto, perché la Merkel ha già governato durante il suo secondo mandato nel 2009 con i liberali, in mezzo proprio all'inizio della crisi. Ecco, intanto i mercati hanno reagito con prudenza, l'euro si è indebolito, insomma un po' di preoccupazione c'è, perché ci sono due scuole diverse qua di pensiero. Una scuola che dice che un'Europa più unita, con garanzie per i paesi anche più deboli, possa crescere meglio e più rapidamente, questo farà bene a tutti, e ci sono altri che dicono no, per carità, perché se poi e questi paesi più deboli finiscono per contaminare anche la Germania, si indebolisce anche la Germania, allora è un disastro. Ecco, tu da che parte stai? Parlando della Merkel, lei nel suo discorso ha proprio detto la Germania ha bisogno di un'Europa forte. È chiaro che quello che è emerso durante questa crisi è che molti paesi non hanno seguito quel processo di convergenza che si sperava, e si è visto che questo può creare un effetto contagio, cioè un paese debole come si è visto con la Grecia, può contagiare, avere un impatto negativo sugli altri. Ecco, e qui veniamo al tuo libro sull'austerità. Però c'è un problema, diciamo, all'origine. Dopo la crisi del 2010, noi abbiamo la lezione di Keynes che ci dice aumentate quanto più possibile liquidità, stimoli fiscali e così via, così via. Cosa che ha fatto l'America, con all'inizio dei risultati difficili sul piano dell'occupazione, del rapporto disavanzo PIL, ma poi con dei risultati straordinari che hanno rimesso tutto in ordine. La Germania si è opposta. Ecco, secondo me questo è stato un grave errore storico, perché poi ha prodotto anche delle conseguenze politiche. Secondo te? Allora, io sono d'accordo sul fatto che la Germania, cioè Weizmann e l'altra economista che siede nel comitato esecutivo, la Sabine Leutschläger, entrambi hanno sempre votato contro le misure non convenzionali di politica monetaria lanciate da Mario Draghi durante questi anni di crisi. Ora, il punto qual è dal loro punto di vista? Che non siamo in una situazione di così spirale di deflazione e quindi si rischia di creare una bolla. Ecco, lì è stato l'errore, perché non c'è stata questa bolla. La parte invece su cui io sono più d'accordo con la posizione tedesca è quella che questo tipo di interventi possono creare un disincentivo a fare le riforme a livello nazionale. Se guardiamo il caso italiano è esattamente quello che è successo, cioè noi abbiamo avuto un aggiustamento fiscale del disavanzo che in questi ultimi 2 anni è passato dal 3 al 2,4 unicamente per effetto della riduzione della spesa per interessi, cioè unicamente per effetto dell'azione della Banca Centrale Europea. Ecco, per chiudere, Veronica, secondo te perché la Merkel e Trump non si piacciono? Beh, un motivo molto semplice, alla Merkel non gli piacciono le persone imprevedibili, un po' come tutti i tedeschi, quindi non lo capisce, non fa parte del suo modo di ragionare. La Merkel è una scienziata, è una che programma, ha una visione lunga delle cose. E poi ovviamente c'è tutto quello che riguarda la chiusura. Lei è cresciuta dall'altra parte del muro per 35 anni, nonostante venisse da una famiglia dell'Ovest. E come dice sempre, lei sa per esperienza che i muri cadono e quindi i muri non sono la soluzione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti e idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta come sempre la nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, Veronica De Romanis con me ai microfoni America 24. Veronica, cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori come canzone del giorno? Parlato della cancelliera Merkel, direi Angie dei Rolling Stones, che se non sbaglio è la canzone che sempre fa suonare i suoi convegni, i suoi comizi, giusto? Esattamente. Angie dei Rolling Stones, dedicata ad Angela Merkel. Angie, when will those clouds all disappear? Angie, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. But Angel, you can't say try. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!